Luzzi, zona Conche, un tranquillo centro della provincia di Cosenza. Nell'apparente tranquillità del corso si cela un sinistro e oscuro mistero, un catenaccio, una persiana. Cosa nascondono? Perché chiudere? Il paese mormora. Comba, ma che ci stanno facendo là? Sempre su catenazzo, io non lo saccio. Sì, secondo me ci ammazzano i piedi. Ma secondo me è una copertura, sì. Sapevo. Fate attenzione, non aprite quella persiana.